sceriffo a 12 anni, col revolvere e la stella sul gilet. Combattevo i fuori legge di tiranni, Pecco Spin pareva meno assai di me. Cavalcavo là nel Texas fra i cowboy, e gli indiani mi assalivano con furore. Mi sentivo il più potente degli eroi, io sparavo ed ero sempre vincitore. Ma fu un bel sogno che ahimè troppo presto finì, sogno della prima gioventù. E di romanzi dell'US che leggevo ogni dì, non ho tempo e non li leggo più. Oggi il piccolo sceriffo a 12 anni, corre volvere la stella sul gilet. È il mio bimbo che si è messo nei miei panni, sogna, sogna ed è felice più di me. Bel sogno che ahimè troppo presto finì, sogno della prima gioventù. E di romanzi dell'US che leggevo ogni dì, non ho tempo e non li leggo più. Oggi il piccolo sceriffo a 12 anni, col revolvere la stella sul gilet. È il mio bimbo che si è messo nei miei panni, sogna, sogna ed è felice più di me. Sogna, sogna ed è felice più di me.